Es ist 6 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Reinhard Becker. Guten Morgen. Dass wir das europaweit durchsetzen konnten, dass sowas wie Plastikgabeln, wie Rührstäbchen, wie Plastikteller verboten werden, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Bundesumweltministerin Schulze wirbt für Regeln, die ab heute in allen EU-Ländern gelten. Einwegplastikprodukte, für die es umweltfreundliche Alternativen gibt, dürfen nicht mehr auf den Markt kommen. Nur Restbestände dürfen noch verkauft werden. Stefan Überbach, WDR Brüssel. Plastikverschlüsse und Deckel müssen künftig an Flaschen und Behältern befestigt sein. Für Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff sind feste Recyclingquoten vorgesehen. Das gilt auch für Trinkflaschen und Zigarettenfilter. Außerdem müssen die EU-Staaten für eine bessere Information der Verbraucher sorgen und mehr Anreize schaffen, damit nicht mehr so viel Plastik einfach weggeworfen wird. Für Corona-Schutzausrüstung wie Gesichtsmasken oder Handschuhe gilt das Verbot nicht. Umweltschützer halten die neuen Regeln zwar für einen ersten wichtigen Schritt, verlangen aber weitere Maßnahmen, um gegen die zunehmende Vermüllung vorzugehen, etwa verbindliche Ziele zur Abfallvermeidung sowie die Ausweitung des Einwegpfandes. Am Düsseldorfer Flughafen ist es gestern zu tumultartigen Szenen gekommen. Grund waren viele Passagiere zu Beginn der Sommerferien und lange Wartezeiten beim Check-in. Benjamin Paris, WDR Aktuell. In der Abflughalle stauten sich gestern viele Passagiere, die mit einer türkischen Billig-Airline fliegen wollten. Die hatte aber viel zu wenige Schalter geöffnet und nach stundenlanger Wartezeit kippte die Stimmung. Es gab Randale und die Polizei musste einschreiten. Sie war dann mit 40 Einsatzkräften vor Ort und regelte bis zum späten Abend den Check-in. Wegen des Nachtflugverbots in Düsseldorf kamen aber nicht alle betroffenen Passagiere mit. Für heute befürchtet die Polizei, dass es am Düsseldorfer Flughafen wieder viel zu voll werden könnte. Weitere Meldungen im Überblick. Amy Guttman soll neue US-Botschafterin in Deutschland werden. Die 71-jährige Politikwissenschaftlerin ist Präsidentin der renommierten University of Pennsylvania und hat deutsch-jüdische Wurzeln. US-Präsident Biden hat sie jetzt nominiert. Guttman muss noch vom US-Senat bestätigt werden. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen einen Verfassungsschützer aus Mecklenburg-Vorpommern. Dem früheren V-Mann-Führer wird nach Informationen des Spiegel vorgeworfen, die Adresse eines tschetschenischen Oppositionellen in Süddeutschland weitergegeben zu haben. Das Innenministerium in Schwerin hat der Bundesanwaltschaft Unterstützung bei den Ermittlungen zugesagt. Bei der Fußball-Europameisterschaft stehen Spanien und Italien im Halbfinale. Spanien setzte sich gegen die Schweiz mit 3:1 nach Elfmeterschießen durch. Italien schlug Belgien in der regulären Spielzeit mit 2:1. Cosmo aus der Region. In der Kölner Innenstadt hat die Polizei in der Nacht Fahrer von E-Scootern kontrolliert. Bei Unfällen mit den Scootern werden fast täglich Menschen schwer verletzt. Oliver Köhler, WDR Köln. Mitten in der Kölner Innenstadt haben Polizisten E-Scooter gestoppt, auf denen jeweils 2 Menschen unterwegs waren. Fahren zu zweit oder sogar zu dritt ist einer der Gründe für Stürze. Dabei verletzen sich oft Fahrer und Beifahrer schwer. Weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten, müssen mehrere Scooterfahrer voraussichtlich ihre Führerscheine abgeben. Laut Polizei wissen E-Scooterfahrer häufig nicht, dass auf den elektrischen Tretrollern dieselben Alkoholgrenzen gelten wie beim Autofahren. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird heute erst sommerlich und sonnig. Ab dem späten Nachmittag ziehen vom Rhein her Schauer und vereinzelte Gewitter auf. Winterberg kommt auf 23 Grad, Bielefeld auf 26 und Köln auf 27 Grad. Morgen Vormittag erst locker bewölkt. Ab dem Mittag bilden sich bei 18 bis 25 Grad zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Ab Montag geht's dann wechselhaft weiter mit Sonne, Wolkenschauern und vereinzelten Gewittern. Und die Temperaturen pendeln sich bei 18 bis 25 Grad ein. Das war WDR Aktuell. Cosmo. Italia. E mentre il sole sale, sale, sale, sale su, e che ci vuole male, male, male un omagù, ma che mi frega a me, mi passa che rimani tu. E se avessi come a casa mia, adesso che non ci sei più. Vorrei quasi buttarmi via, tu porti il tuo cane giù. Vai sempre a Santa Maria, la piazza che ci dice addio. Il russo canta sole mio, tu non sei il sole mio. Il solito menù che ci hanno fatto i filtri su come facevi tu. Magari è solo un déjà vu, un déjà vu, un déjà vu che ho avuto quella sera. E mentre il sole sale, sale, sale, sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba, che mi frega a me, mi basta che rimani tu. E andavi fuori di testa, quella mezza tresca è tutto ciò che ci resta. Si abbracciano il cielo. Troppo falso che non c'era niente di più vero. E pensavo di volare, ma un attimo e cadevo giù. Oggi il sole scioglie le suole di questo etro. M'hai lasciato appeso ad un discorso in sospeso. Non ti vedo da quel giorno in quel fast food a Oviedo. E mentre il sole sale, sale, sale, sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba, che mi frega a me, mi basta che rimani tu. E mentre il sole sale, sale, sale, sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba, che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Se rimani qua e non so se a questa fine non ci sarà più uno star. E quando penso sia finita, eccola là che ricomincia. Quella te che ho conosciuto adesso manco t'assomiglia. Basta un battito di ciglia per un attimo di buio che ti sfoga la realtà. E mentre il sole sale, sale, sale, sale su, e a chi ci vuole male, male, male una macumba, a me mi basta che rimani tu. E andavi fuori di testa, quella mezza tresca è tutto ciò che ci resta. E andavo fuori di testa, il tuo numero in tasca è tutto ciò che mi resta. Mi resta di te. Coraline, Coraline, Coraline bella come il sole. Corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse. Preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. Che freddo già, è una bambina però sente come un peso, e prima o poi si spezzerà e la gente dirà: non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta. Ma un giorno, una volta, lei ci riuscirà. Detto Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. detto coralline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma coralline non vuole mangiare, no. Sì, coralline vorrebbe sparire. E coralline piange, coralline all'ansia. Coralline vuole il mare ma ha paura dell'acqua. E forse il mare è dentro di lei. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei, di lei. Capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene. Sarò anche un soldato o la luce di sera. E in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso. Ogni tua piccola lacrima è oceano sopra il mio viso. E in cambio non chiedo niente. Parte la musica, mi carico. Questo qui è un momento magico. Dal Tirreno all'Adriatico. Io sto bene solamente quando sto con te. A fine serata sembro già un'altra volta. Uscendo dalla pista con la giravolta. Però non fare tardi come l'altra volta. Siamo già tutti in macchina. Dimmi cos'è questa musica nuova dell'aria. E tu chi sei? Bella come un'estate in Italia. Che canta sotto la luna. Che ne pensi di un posto lontano, dove il traffico non c'è e le stelle che cadono a mare le prendi per mano. Un'isola deserta senza wifi, voglio solo good vibe, non pensiamo più a nulla. Stanotte se balla. Dimmi cos'è questa musica nuova dell'aria. E tu chi sei? Bella come un'estate in Italia. Che canta sotto la luna. Così tanto io e te. Dimmi cos'è questa musica nuova dell'aria. E tu chi sei? Bella come un'estate in Italia. Che canta sotto la luna. E si tuffa nel mare stasera. Sarà un'altra avventura. O durerà per una vita intera. Se con te ballo un po'. Cubano, brasiliano, argentino, colombiano, sudamericano, faccio in controluce. Io con te non parlo mai sottovoce. Baby, hai più energie delle onde del mare. E lo sai bene, anche se dirlo ti fa male. Ti vengo a prendere, non preoccuparti. Passo sotto casa con un taxi. Sei bella anche con la tuta. Perché non sorridi, baby? Hai gli occhi pieni d'acqua. Raccontami tutto che mi passa. Perché non sorridi, baby? Per te corro veloce, sulle vetro si sciolgono macchie di colore. Wow. Sei piena di luce, non credere a nessuno. Brilli anche di più quando siamo al buio. Baby, hai più energie dell'onde del mare. E lo sai bene, anche se dirlo ti fa male. Andiamo dove non siamo mai state. Facciamo tutto quello che ti piace. Sei bella. Lei sa che sono il king del quartiere, sa che ho delle hit in cantiere. Non c'entro con i VIP che tu hai intere. Mi trovi in playlist al barbiere. Ancora fumo marijuana, sempre sognando Copacabana. Leggo la bici con la tua collana. Uso il tuo outfit come pigiama. Fammi fare un tiro in mano a tua mamma. Goditi il panorama, baby, no, brava. Chiuso in casa il tuo palazzo, sembra il Niagara. Risparmia le tue lacrime di Nagadara. La luna è piena, lupi fuori tana. Lo snitch in fama, non voglio fare haram. Non vola più una mosca dopo il click clack. Mo che fai se non mi trova? Chiagni ancora, mi stracciato tutte le foto. Ma cerca ancora, tutte non mi basta un'ora. Sotto il lenzuolo, fa che fuori si ci pensa. Una voglia ancora. Tenga menta lucida, rinda la fata, sai. Non bastardo con me non sanno amore mai. Stanno carendo in munizione a rinde i jeans. Pensa si va chissà facciamo in coppa e riviste. Che pensasse me, so passata da down a stando top. Non tipo come boyfriend, tu e a me mi tocca. Come criminale in capo mi timo du reg. Faccio uno squillo a gang avviso che a dormi sta fest. Prendi la pesa, l'anima pesa. Minchia se pesa, non mi è ancora scesa. Ancora la scena, nella cavessa ci aiutava la chiesa, ci portava una spesa. Non era facile, molte cose facile, con chi stimone in mano gira in automatica. Loro sono brava, se state fanno l'applauso. I pochi nei sangue sono a scendere a savana, tengono a pelliccellone. Sai che l'ha già ammazzati, sono sempre chi è prima. Sai che non sono cagnata, beva vino e danno un calice, lacrime di diavolo. O sei capato una mesce, vira solo la squadra. Non ci stive tu ma ricettai, senza voce doi ma caputai. Amore già fatta per te, e tu giuro non mi penta, te voglio ancora. Mo che fai se non mi trova, cagni ancora, mi stracciate tutte foto. C'ho un ricordo che porta il tuo nome, ogni tanto mi viene a bussare. Non ti scrivo per farmi del male, sarebbe autoreferenziale. C'è un silenzio, c'ho scritto il tuo nome, come un altro da collezionare. Sei la frase che appunto ogni giorno su un foglio mentale. Lo sai, pensarci troppo non fa bene, come quei turisti tristi incontrati mille volte. Gira vuoto e senza voglia e direzione quando chiama la tua voce. Telefonami, tanto non lo facciamo più. Di quanti argomenti che non sono noi due potremmo parlare per ora o anche per sempre. Imparato che siamo diversi, assodato che siamo complessi. L'attitudine è troppo prudente o troppo sentimentale. Raddoppiando riuscite e difetti, agitandoci per mescolare. La somma a volte non torna, ma almeno è spettacolare. E tu, dall'altra parte del mondo, forse ormai ci credi poco alle promesse maledette, ma non riesci a non fidarti, a non cascarci quando senti la mia voce. Telefonami, tanto non lo facciamo più. Di quanti argomenti che non sono noi due potremmo parlare per ore o anche per sempre. Ascoltate mille volte, non riesco questa sera a fare a meno di sentire la tua voce. Telefonami, tanto non lo facciamo più. Di quanti argomenti che non sono noi due potremmo parlare per ore o anche per sempre. Cosmo, Italia. Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai. Ci piace giocare. Facciamo le maracchelle quando bisticciamo. Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore. E sorridiamo quando ti arrabbi. È una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace alla follia. Che fai con le facce e mi tieni il broncio. Oh, se ti tolgo il trucco. Oh, ma lo sai che sei ancora più bella. Quattro di notte e luci si spengono. I cuori si bruciano e fanno le scintille. La città da da di notte si da da da. C'è ancora che da da da. Ma come un bambino con le figurine. La paranoia, ya, se poi te ne va, va, vai. E le braccia di un'altra tra. Non fermano il tempo come con le tue. Se stette ferme le lancette. Siamo su le giostre. Salgo io e poi sali pure tu nel mentre. Guardiamo dall'alto mezzo con. Faccio troppi complimenti, baciami subito, che manco mi accorgo, che il cielo non è solo il nostro, ma il battito sì, quando. Le guance rosse e gli occhi di ghiaccio, oh, rimango di succo, oh, quando mi dici siamo imperfetti. Quattro di notte e le luci si spengono, labbra si incollano, e dopo non si staccano mai. Strette, ferme le lancette, siamo su le giostre, salgo io e poi sali pure tu nel mento. Tutta questa frenesia. Io ti penso ma non ho tempo. Non ho tempo di amarti tanto. Voliamo in alto come stelle nella notte. Troppo veloci. Su una strada trafficata. Una città di sconosciuti. Dove la strada è la mia testa incasinata. Ti prego vieni a liberarmi dalle onde. I miei pensieri si aggrovigliano nel ventre. I nostri corpi sono ormai equidistanti. Uno dall'altro. Dimmi quando piove dove vai. E se ti senti solo cosa fai. Cresce la distanza fra di noi. Come quando è festa e non ci sei. Lasciami le chiavi dove vuoi. Lasciami dormire ancora. Sonno e non so se tornerai. Come quando è festa e non ci sei. Liberarsi e fine mese andare via. Io ti penso ma poi mi stanco. Se mi stanco lo sai riparto. Corriamo ore a piedi nudi nella notte. Pericolosi. Dimmi quando piove dove vai. E se ti senti solo cosa fai. Cresce la distanza fra di noi. Come quando è festa e non ci sei. se non ci pensi. C'è chi vede il mare, chi solo acqua salata. Scappo dall'amore come fosse la police. Lei balla sul mio cuore come in crisi. Fuori nel mio petto, puoi guardarci dentro. Venire ad abitarci, cambiare arredamento. Far sbocciare i fiori nel mio appartamento. Puoi fare ciò che vuoi, tanto ormai ti appartengo. Se vorrei mostrarti una stanza di me, con le mani al centro del mio petto, domandare se magari c'è qualcuno qui dentro. Fuori è buio, pesto, il mondo fa spavento, ti viene da perderti, puoi fermare il tempo se ti serve un tempo, passare la notte qui. Tutta una vita da andare via, rose fra le maison di periferia. siamo io e te, io e te. Boss, donnez-moi mon bon goût, donnez-moi mon bon goût, per les amis, la famille, la fri. Donnez-moi mon bon goût, boss, donnez-moi mon bon goût, donnez-moi mon bon goût, per les amis, la famille, la fri. Donnez-moi mon bon goût. Soli nel band, il telefono squilla, piombo per cena, non c'era del matin. Davanti a scuola, giurarti la vita, se avrebbe più realità. Vieni con me che andrà bene, mon bebé. Via dalla ralla di questo quartiere. Il n'y a pas de mira, sans foi, sans foi. Yeah, yeah, yeah. Abana, l'albo è più veloce quando sei in mezzo ai guai. Va bene, chiedere alla vita almeno un'ultima chance. Vieni via lontano, mon bebé. Non c'è niente ormai nel quartiere. Ad andare via, rose fra le maison di periferia. E ora siamo io e te, io e te. Boss, donnez-moi mon bon goût, donnez-moi mon bon goût, per les amis, la famille, la fri. Donnez-moi mon bon goût. Boss, donnez-moi mon bon goût, donnez-moi mon bon goût, per les amis, la famille, la fri. La braccialetta rossa in viso ed abito fiorato, andava in giro in libertà, la chioma sciolta al passo lento e attento di una musica. Non sopportavo la sua espressione così plastica, bambola di porcellana di puerile ingenuità, sul suo viso niente che pesasse, sogni infranti o sofferenze, tutto semplice. Aiuto per favore, voglio anch'io un attimo per essere felice a modo mio. La signora ingenua donerà la soluzione ai tuoi problemi e svelta se ne andrà. Intensa di follia, dopo si è vestita e andata via. Tu casa, la signora ingenua donerà fa niente. Sarà, sarà l'oasi in mezzo al Sahara. Sarà pioggia e nubi dal mare. Sarà un corso d'acqua in salita, salita. Samba, coi tuoi occhi samba. Labbra nella carne, fiori nella sabbia. Santa, nei tuoi occhi santa. Nei tuoi tocchi salto, danzo, salta. Fantasie non dare modo di averti. Resta nei miei incubi quando te ne andrai. E non tornare mai, mai, mai. Mamma, liberata dal karma. Calypso, fai l'alta marea. A sud nelle tue labbra. Foresta, caligo, marea. Saluto Lucia per tutta la tua poesia, ma ora devo andar via, Lucia. Rossana, come sei bella, ora non posso spiegarti. Ieri con tua sorella la vita è stata più bella. Francesca, porta i saluti a tua mamma e a tua zia. E una rosa Luisa da parte mia. Ora non piangere Lisa, con Federica lo sai. Chiedilo anche a Beatrice, a Marianna e a Gina. Gaia, per te il discorso è a parte. Una bella estate con mia nonna al mare, che non potrò mai più dimenticare. Ho passato pomodori con mia nonna al mare, che non potrò mai più dimenticare. Mi hai fatto una torta, dillo tu a mio cugino. Forse è meglio non dirlo a mio cugino. Daniela, non mi aspettavo, pensavo fossi partita. La partita di ieri è finita. Gaia, Italia. Per te il discorso a parte, perché di te mi stavo innamorando, ma poi per fortuna è arrivata mia nonna con la sua saggezza e mi ha fatto un invito. Ho passato una bella estate con mia nonna al mare, che non potrò mai più dimenticare. Ho passato i pomodori con mia nonna al mare, che non potrò mai più dimenticare. Va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va Italia. La notte taglia a metà l'anima della città, tu che ne piene le palpebre di parolacce romantiche. Suona una radio che fa na na na na na na na. Lo scrivo sopra la polvere, succederà, fermati qua. Vista dalla finestra, ehi tu, la luna sembra un'altra, ma giù, là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina, sì però. Ancora un movimento lento, poi chiami un taxi. Si attorciglia, gente tra la gente, attimo fuggente, battito di ciglia. Una scena di Almodovar, sì magari ti chiamo magari. Pelle sulla pelle, un sorso di veleno che se ne va. Ancora un movimento lento, poi chiami un taxi. Da queste parti facciamo presto a fare tardi. notte sanguina tra le mani, tu rimani, fai le valigie e vai via domani, e tu mi dici no. Non si può tornare indietro, e io ci credo. Ma quando stavi male, quanto corso, oh, le quattro di mattina il fiato corto, non ci volo più su questa città. Sono solo cerotti sopra l'anima. Mentre mi perdo tra le tue mani, tu scompari. La stanza è piena di belle frasi, e tu mi dici no. No, non si può tornare indietro. Credo, ma quando stavi male, quanto corso, oh, le quattro di mattina il cuore rotto, non ci volo più su questa città, le strade. Soltanto due briciole sul divano, mentre mi butti via lontano, butti via anche un po' di te. Non ci volo più su questa città, le strade, le case, i tuoi dischi nella macchina. Non ci vivi più in questa città, le notti sono solo cerotti sopra l'anima. Le notti sono solo cerotti sopra l'anima. Solo cerotti sopra l'anima. Why love? sei. Non è più il caso di lasciare stare. Fa come ti pare, da sopra un altare. Non mi giudicare se corro nudo sotto un temporale. Meglio stare soli sotto questa pioggia. Fluo quando cadi. Se ti dico cosa penso poi tu rimani. Forse sono bravo più a nascondere. Soffio la polvere via da questi anni strani passati a rincorrere. Ognuno ha le sue muse, con te non ho scuse. Parole confuse, disegno meduse. Allora su di me, le tue paure puoi lasciarle cadere. Su di me, su di me, su di me. Quello che senti puoi lasciarlo cadere. Su di me, su di me, su di me. Quello che posso fare, provare a non mentire. Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte. Il buio è un cane che non morde. Prometto di essere più forte, perché per me sei tutto, anche se in questo mondo siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Per me sei tutto, anche se siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Ok, non ne parliamo più. Ho fatto un po' di ordine nel caos e resti solamente tu. Bisogna attraversare strade assai pericolose per arrivare al senso delle cose. Tutto già scritto, il futuro è in affitto. L'amore è un conflitto, fissiamo il soffitto. E allora su di me, le tue paure puoi lasciarle cadere. Su di me, su di me, su di me. Queste cazzate puoi lasciarle cadere. Su di me, su di me, su di me. Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte. Il buio è un cane che non morde. Prometto di essere più forte, perché per me sei tutto, anche se in questo mondo siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Sei tutto, anche se siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Per me sei tutto, anche se siamo zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Nulla è zero se lo paragono.